luoghi d'arte. Un saluto da Marco Carminati, sono a Palazzo Reale di Milano. Palazzo Reale di Milano in questo periodo offre molte mostre, ma ve ne vorrei segnalare una particolare. È la mostra che ospita a Milano alcuni dei capolavori del Museo di Belle Arti di Budapest, il quale in questo periodo è chiuso per lavori di ristrutturazione e si può permettere di mandare in giro per il mondo i propri capolavori. È un'occasione importante perché il Museo di Budapest è una delle collezioni più ricche di opere d'arte che si trovino in Europa. Non è un museo molto antico, fu inaugurato solo nel 1906 da Francesco Giuseppe in persona, che naturalmente era l'imperatore dell'impero austro-ungarico, e questa collezione è però molto antica perché raccoglie i dipinti, soprattutto i disegni, delle grandi collezioni nobiliari ungheresi, in particolare degli ecclesiastici e delle grandi famiglie principesche. A un povero italiano pronunciare i nomi di questi collezionisti è praticamente impossibile, solo la famiglia Esterhazy ci è familiare, e proprio dalla famiglia Esterhazy ci sono dei nuclei di opere molto importanti. La mostra è strutturata non però per nuclei di collezione, ma racconta la storia dell'arte. Sostanzialmente si comincia con delle bellissime sale dedicate all'Alto Rinascimento, con opere di Raffaello, con un cavallino di bronzo che è attribuito a Leonardo da Vinci, con opere di Lorenzo Lotto, e poi opere del periodo veneto, quindi c'è una grande sezione dedicata all'arte della Serenissima, Tintoretto, Veronese, El Greco, eccetera, e poi di nuovo si torna al Rinascimento in Europa con delle bellissime opere di arte nordica e fiamminga che noi qui in Italia difficilmente vediamo nei nostri musei. Nel 600 naturalmente ci sono grandissimi capolavori, tra cui uno da non perdere, di Velázquez. Insomma, un riassunto della storia dell'arte, però visto attraverso le opere d'arte del grande Museo di Belle Arti di Budapest.